Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo da anche noi, come sta facendo oggi tutta Radio 24, dalla giornata che abbiamo dedicato anche al cosiddetto welfare sussidiario, ossia il welfare aziendale, un tema e beneficio economico che ne deriva. A maggior ragione quando la presenza femminile, pur con molta fatica, in Italia è sempre crescente nelle imprese. Beh, c'è un rapporto molto importante della McKinsey che dimostra sostanzialmente come quando un'impresa o un gruppo si occupa anche del welfare aziendale, non è solo l'asilo, ma si parte anche da lì, beh, i vantaggi per la redditività e quindi anche la produttività dell'impresa stessa sono enormi. Lo dico perché spesso ci occupiamo di come aumentare la produttività, come rendere più competitive le nostre imprese. Beh, anche quello è un tema. Chiaramente non è il tema principale di questa puntata, perché oggi ci occuperemo anche e soprattutto delle continue fotografie che arrivano da questa crisi. E da un lato l'allarme sulle imprese scattato anche ieri dalla Confederazione Nazionale Artigiani nel rapporto Muovi Imprese. Non siamo riusciti a farlo ieri perché l'abbiamo trasmesso in diretta l'importantissimo, a mio avviso, discorso a Camere Riunite del Presidente della Repubblica Napolitano. Lo faremo oggi, ma oggi c'è anche il dato dell'Istat sulle famiglie, e quindi che va in parallelo la crisi degli artigiani, del commercio e anche delle piccole imprese. Ha poi chiaramente un effetto speculare sull'andamento dei consumi. Il 70% delle famiglie ha tagliato sulle spese per cibo e sanità, il 62% delle famiglie fa la spesa al discount, lo dice l'Istat, è un 9% in più in 12 mesi. Di questo anche ci occuperemo. Poi la vicenda Parmalat, che in realtà non è solo il saccheggio di Parmalat, che è l'ipotesi o la paura per quello che riguarda il gruppo francese Lactalis, che nel 2011, ricorderete, con un'OPA totalitaria comprò l'intera Parmalat, ma è anche un modo per parlare del continuo shopping francese, perché dopo Bulgari e altri gruppi comprati dai francesi, appunto Parmalat, ieri è stata la volta di Richard Ginori con Gucci, che fa parte sempre del gruppo PPR, quindi Pinot, e ancora il gruppo PPR dovrebbe chiudere praticamente un'altra operazione importante, quella su Pomellato, staccando un assegno da 300 milioni di euro. Anche di questo ci occuperemo. 349-238-6666. Fatemi però partire, visto che non so, che è un periodo anni ormai di notizie non certo esaltanti, con una buona notizia che riguarda ancora una volta la nostra borsa. Non è la più forte oggi, però è ben messa: più 2,5% Milano, più 3,20 Parigi, più 2,30 Francoforte, più 1,80 Londra, più 0,88 l'America. Euro a quota 1,30. Bene oggi non solo i titoli bancari, ma anche i titoli bancari, ma bene ST Microelectronics più 8,80, Telecom Italia più 7%, Popolare Emilia Romagna più 6, Unicredit più 4,40, Mediobanca pure. Ancora segnalo tra i bancari Intesa San Paolo più 2,80%, di negativo c'è solo Saipem meno 2,14, vanno molto bene anche Enel più 4%, Fiat più 5,80, Prismian più 3,90, come Finmeccanica, Mediolanum più 3,7 e Ferragamo più 3,40%. Perché? Perché l'effetto napolitano, non so come chiamare in altro modo, sui mercati continua. Il nostro spread è sceso a 265 punti base e siamo ai minimi dal 2 novembre del 2010, quindi ben prima che partisse l'attacco all'euro e al debito italiano. Ricorderete, era maggio, giugno, luglio del 2011, quindi siamo tornati indietro anche rispetto a quei livelli. Questo lo si vede poi nel rendimento di un BTP a 10 anni italiano, il cui tasso è sceso sotto il 4%, al 3,98%. Vuol dire che all'Italia indebitarsi, cioè trovare finanziatori per il suo debito, costa sempre meno, fino a 265 punti base, e il differenziale appunto con la Spagna è sotto quota 300 punti anche la Spagna. E poi c'è qualche dichiarazione un po' così, ma non voglio subito polemizzare. Un gallo ci vuole per questo spread che torna ai livelli pre-attacco all'euro. Speriamo che duri. Il gallo è in questo caso ben augurante. Quindi lo spread, però oggi, per carità, sopravviveremo, è tornato a parlare d'Italia il ministro alle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, uno dei falchi, e ha detto: nonostante la crisi, le misure di risanamento concordate a livello europeo, in Italia si vive ancora bene, per questo anche noi tedeschi ci andiamo in vacanza tanto volentieri. Il recente studio sulla ricchezza dell'Unione Europea, reso noto dalla BCE, contraddice l'impressione diffusa secondo cui il processo necessario di riforme riduca l'Europa del Sud in grave povertà. Allora, caro Schäuble, vediamo di capirci. Cioè, non è che se lei o io andiamo in un paese in villeggiatura, in vacanza, per forza di cose quel paese stia bene, no? Allora, tutti quelli che vanno nei paesi del sud del Mediterraneo, o vanno in Africa, o vanno in Asia, dobbiamo dire per forza che tutti stanno bene solo perché ci andiamo in vacanza? Cioè, uno va in vacanza perché il paese è accogliente, per il paesaggio, per la cultura. Uno può andare anche in vacanza in Grecia. Questo cosa vuol dire? Che siccome io andrò in vacanza in Grecia, poniamo un esempio, i greci stanno bene? Io non so. Noi tedeschi ci andiamo in vacanza tanto volentieri. Ho capito. A parte che secondo me se continuate così... Però non basta questo per dire che un paese sta bene. Allora, i dati che noi raccontiamo ogni giorno, l'ultimo quello sul fallimento delle imprese e sulla riduzione dei consumi, sono una cosa. Ho capito che lo studio della Banca Centrale Europea dimostrava come gli italiani abbiano un patrimonio importante, ed è vero, siamo un paese ad altissima evasione fiscale. Negli anni passati, soprattutto chi ha evaso in quel modo è riuscito a mettere da parte, in Svizzera, non in Svizzera, determinate cose. Però da lì a dire che il paese non è vero che soffra perché si va in vacanza e ancora ci sono dei patrimoni, non so, mi sembrano dichiarazioni veramente di un banale, di un stereotipato. Poi torneremo anche su questo. Intanto andiamo sugli altri mercati. L'oro in calo a $88 al barile. Per quello che riguarda le notizie della Cina, continua a scendere la produzione industriale cinese. Nel mese di aprile si è fermato l'indice PMI a 50 punti, 50 è la differenza tra crescita e stagnazione. Però il problema sono le esportazioni, debole domanda europea, ma anche debole domanda che arriva dagli Stati Uniti. Poi c'è modo e modo di far crescere il PIL, oggi lo trovate sui giornali, perché gli Stati Uniti, se mi permettono la battuta, stanno diventando sempre più italiani, usano la svalutazione per essere competitiva, il dollaro lo tengono basso così, imbarcando deficit e debito, come facevamo noi ai tempi della lira. Adesso hanno anche alcuni accorgimenti che uno potrebbe chiamare dei trucchi. Il governo americano vuole introdurre nel calcolo del PIL nuove attività intangibili, si chiamano intangible assets delle volte, come le royalties sui film, i diritti sui film, la spesa per ricerca e sviluppo, questo con l'effetto di fare lievitare di molto il valore del prodotto interno lordo. È la più grossa rivoluzione contabile dal 1990, quando dentro il PIL americano fu introdotto anche il software dei computer, e potrebbe portare in questo modo il PIL americano a crescere del 3%, a dimostrazione che il PIL fotografa una parte ma non tutto. e qualcuno ricorderà il bellissimo discorso di Bob Kennedy. Intanto lo facciamo sentire. Ho detto l'oro, il petrolio in calo a $88 al barile, chiedo scusa, era chiaramente il petrolio in calo a $88 al barile, magari un barile di oro costasse $88. Chiedo Veni, andiamo avanti con le notizie. No, non sono i tedeschi comunque che mi fanno distrarre. Ancora per quello che riguarda il dato italiano l'abbiamo ricordato, ma c'è un'altra notizia che riguarda invece l'intervista, e qui torno sulla Germania, di Beppe Grillo al Bild, al tabloid tedesco Bild, mai tenero con l'Italia. Allora Grillo ha detto: in autunno l'Italia va in bancarotta. Berlusconi è finito, le piccole e medie imprese sono in bancarotta, fra settembre e ottobre finiranno i soldi, sarà difficile pagare pensioni e stipendi. Ora io non lo so, delle dichiarazioni politiche interessa molto poco questo programma, e poi è giusto che un partito faccia chiaramente campagna politica, niente di male, però e poi aggiunge nell'intervista Beppe Grillo: sarei contento se di un'invasione tedesca in Italia, perché in Parlamento siedono ancora 30 parlamentari condannati. A me piacerebbe avere anche le persone oneste, competenti, professionali nelle posizioni giuste. In questo senso sarei contento di un'invasione tedesca in Italia. Vabbè, quello fa parte della lotta politica. Quello che invece trovo abbastanza grave è, visto che comunque uno lo metta, è un leader politico Grillo e ha il secondo partito in Italia, fare un'intervista a un settimanale tedesco con quello che è il preconcetto tedesco in questo periodo, con quella che è la posizione tedesca, a mio avviso fortemente corresponsabile per questa gestione di un'Europa tutta austerità e tagli, che è l'unica area geografica del mondo ancora in recessione, che si è beccata la seconda recessione mentre gli altri ne hanno avuta solo una di recessione. Andare dai tedeschi a dire l'Italia di Antuno va in bancarotta, le piccole e medie imprese andranno in bancarotta, fra settembre e ottobre lo Stato finiranno i soldi e sarà difficile pagare pensioni e stipendi, non è un atteggiamento da politico, anche se non è in Parlamento non me ne frega nulla, da leader di un partito. Si chiama fare allarmismo, l'abbiamo sempre criticato. O tu giustifichi questi dati, o spieghi perché saremo in bancarotta, o spieghi perché finiranno i soldi per le pensioni e per gli stipendi, oppure fai terrorismo sociale, visto che non è più un comico o un privato che parla, ma è leader di un partito e parla a un settimanale importantissimo in Germania. Quindi Beppe Grillo non se ne abbia, si becca il nostro gufo oggi nella speranza che abbia tirato una gufata assurda, perché non c'è un elemento per dire che finiranno i soldi per le pensioni e gli stipendi. Il deficit è sotto controllo, la procedura di infrazione ce la stanno levando, forse ci sarà bisogno di fare una manovra correttiva, ma è un'altra cosa, 7-10 miliardi, nessuno la vuole, per carità. Ma dire che un paese sta finendo i soldi per le pensioni e per gli stipendi significa paragonare l'Italia a quello che rischiava Cipro se non salvavano le banche, o la Grecia se non veniva salvata. È un'assurdità da ignorante, inteso come chi non conosce. E quindi il gufo a Beppe Grillo, e attenzione a farci del male da soli quando facciamo interviste all'estero. Manca solo spaventare i tedeschi anche su questo. Vai col gufo. Invece oggi c'è il rapporto della Banca d'Italia, un po' più serio rispetto a queste sparate assurde. Ripeto, che il paese sia in difficoltà lo sappiamo tutti, ma dire che non ci saranno i soldi a settembre per pagargli le pensioni e gli stipendi, ma se qualcuno lo prendesse seriamente, no? Perché è inutile criticare la classe politica se poi, voglio dire, si sparano queste cose a raffica. Ok? Allora, se qualcuno lo prendesse seriamente, inizierebbe ad andare a ritirare i soldi alle banche, giusto? Una roba da pazzi. Andiamo avanti. Dicevo, la Banca d'Italia oggi esce con il documento, in realtà è l'audizione del direttore centrale Daniele Franco al Senato, il quale dice che per mantenere il pareggio di bilancio anche dal 2015 sarà necessario fare ulteriori correzioni, anche se limitate rispetto a quelle attuali, cioè piccole manovre. Poi la Banca d'Italia fa notare come le tasse siano elevatissime in questo paese, al 44%, 3 punti sopra la media europea, e tra l'altro questo 44% viene incaricato tutto sulle persone oneste, ecco perché poi il presidente Confindustria, la Confindustria, scusatemi, ha detto che il peso del fisco sul PIL italiano è al 53%, se si va a vedere chi le tasse effettivamente le paga. A proposito di fisco, oggi nel corso del forum lavoro del Sole 24 Ore è intervenuto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, il quale ha detto stiamo per emanare tra le altre cose una direttiva in cui semplifichiamo i criteri di controllo delle richieste di rimborso IVA, quanto mai importante per le imprese. Ascoltiamo questo passaggio. Siamo per emanare una direttiva in cui semplifichiamo notevolmente i criteri di controllo delle richieste di rimborso IVA, specialmente per le imprese che sostanzialmente sono sempre a credito, per accelerare ancor più questa procedura di rimborso e quindi alle imprese che sono quasi sempre a credito, pensiamo alle imprese con l'imposta, con l'aliquota a scalino, dare nel più breve tempo possibile il rimborso e chiedere meno documentazione possibile, quindi ridurre i costi amministrativi e accelerare i rimborsi. Il nostro dovere è quello di riscuotere le imposte, sia le imposte pagate volontariamente che quelle da attività di accertamento. Fare il nostro dovere, ma certamente farlo cercando di tener conto dell'attuale situazione di crisi. E poi per quello che riguarda quanto dichiarato oggi sempre Attilio Befera, ha ammesso sempre nel corso del forum lavoro del Sole 24 Ore che le norme fiscali sono una giungla incomprensibile che va semplificata. Banalmente glielo dicevamo anche noi, è l'unico paese al mondo, uno dei pochi al mondo, in Italia, in cui tu hai l'obbligo di avere un commercialista se vuoi fare la dichiarazione dei redditi. In altri paesi, penso al mondo anglosassone, basta un accountant che è sostanzialmente uno che ti tiene l'amministrazione, non uno che interpreta le leggi dello Stato senza il quale tu non riesci a compilare un 730 o 740 da solo. Comunque sentiamo questo passaggio. La lotta all'evasione ha un significato anche in termini di aiuto al superamento della crisi. Un paese dove l'evasione è molto alta è un paese che ha scarsa credibilità internazionale. Cioè l'evasione alta diminuisce la credibilità internazionale. Se poi a questo ci mettiamo le norme fiscali che sono una giungla, io chiederò al governo di fare nella delega una revisione del testo unico delle imposte sui redditi, le norme fiscali sono una giungla incomprensibile oramai, questo ancor più fa perdere credibilità al nostro paese. La lotta all'evasione fatta con la massima attenzione, cercando di evitare situazioni non corrette, situazioni di difficoltà nel rapporto, tenendo conto delle situazioni, diverse situazioni territoriali della crisi, ecco, la lotta all'evasione comunque contribuisce a dare più reddito, maggiore distribuzione di ricchezza, maggiore competitività e maggiore credibilità. Così Attilio Befera. Allora su Grillo, alcuni ascoltatori dicono beh, ma Grillo ha avuto ragione, sintetizzo, ha avuto ragione su Parmalat, su Telecom, insomma abbastanza, sul Monte dei Paschi, sui conti. Allora, a parte il fatto che queste cose qualcun altro le aveva scritte, però è verissimo, l'abbiamo sempre riconosciuto che Grillo ha avuto ragione nel dire succederà non terranno i conti di Parmalat e di Telecom. Quello che sto dicendo è che nel momento in cui tu comunque sei leader di una forza politica, fai un'intervista alla settimana tedesco Bild, o hai degli elementi concreti per dire che, non dire che l'Italia avrà bisogno di un'altra manovra, che la situazione si complicherà, tutte cose, ma dire addirittura che non ci saranno i soldi per pagare le pensioni e gli stipendi a settembre. Ora, veramente, o noi siamo come la Grecia, abbiamo truccato i conti e non c'è nessun elemento per dirlo, mi riferisco alla Banca d'Italia, all'Istat, ma stiamo scherzando, oppure uno deve argomentare il perché. Perché quello su cui stiamo ragionando è: ci sarà o no una manovra correttiva? Il ministro Grillo la smentisce, però sappiamo che è un governo in scadenza. ci sarà una manovra correttiva, terremo il tetto del 3% quando ripartirà l'economia, ma dire che non ci sono gli stipendi, i soldi per pagare gli stipendi e le pensioni, è fare terrorismo, perché non stai citando un caso concreto, è fare terrorismo banale, su, per favore, che andremo in bancarotta a settembre, ma che vuol dire? Cioè, oppure do argomenti. Che poi i nostri politici, leggo altri messaggi, abbiano sparato cose in questi 20 anni. È verissimo, ma non è un buon motivo per continuare a farlo. Dai, cerchiamo di essere seri. Detto ciò, 349-238-6666 per i vostri sms. La pagina di Focus Economia su Facebook. Vorrei adesso lanciare il nostro appuntamento abituale sugli sprechi della nostra pubblica amministrazione, con un passaggio però lo attacchiamo a, se non si offende il Presidente della Repubblica, lo attacchiamo al nostro stacco, perché c'era più di un passaggio ieri sulla cattiva, se non corrotta, gestione della cosa pubblica da parte della nostra classe politica, tutta compresa, non solo quella che siede in Parlamento. Attenzione, il vostro applauso, quest'ultimo richiamo che ho sentito di dover esprimere, non induca ad alcuna autoindulgenza. Non dico solo non dico solo i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle diverse sfere della politica e dell'amministrazione, ma nemmeno i responsabili di tanti nulla di fatto nel campo delle riforme. Abbassare, potrebbe più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, potrebbe più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politici zate, evasori legalizzati, potrebbe più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, ne abbiamo anche oggi di cose da raccontare. Due precisazioni però. Ha ragione un ascoltatore, torno su Grillo per un istante, quando dice: ma se questa è la situazione che Grillo immagina, ossia che a settembre non vi saranno più i soldi per pagare stipendi e pensioni, perché ha proposto nel suo programma elettorale lo stipendio, il salario minimo? Allora, o una o l'altra, Grillo, o ci sono i soldi per fare il salario minimo, o non ci sono i soldi per pagare le pensioni e gli stipendi di chi già ha un lavoro. No, le due cose assieme non si tengono. Comunque, invece, ha creato parecchie reazioni e sviluppi l'inchiesta che oggi è presente sul Sole 24 Ore, in cui, un articolo di Claudio Gatti, in cui si ricostruiscono le varie operazioni contabili dell'attuale ministro all'economia Vittorio Grilli. Perché? Perché c'è una casa acquistata a 1 milione di euro, inferiore addirittura alla montata del mutuo che Grilli ricevette dal Monte dei Paschi, per l'acquisto della ristrutturazione. L'ex moglie Lisa Lowenstein, che è quella che un po' lo sta inguaiando, ha ammesso che il prezzo totale pagato per l'acquisto era molto più vicino a quello di mercato, circa 2 milioni e 200 mila euro, e una parte rilevante di quel pagamento è avvenuto con denaro proveniente da un conto offshore, quindi paradiso fiscale, di mio marito, con i soldi guadagnati nell'anno in cui ha lavorato per Credit Suisse a Londra. Tutti i conti in chiaro, dichiara Grilli, su cui ho pagato tutte le tasse. E poi c'è il capitolo ristrutturazione. Grilli scrive ancora, ha scritto oggi Sole 24 Ore, citando i documenti del divorzio del ministro: ha personalmente speso 118 mila euro per acquistare materiali da fornitori, 256 mila euro versati a mezzo bonifici bancari alla società incaricata della ristrutturazione, questi 374 mila euro sarebbero la metà dei 642 mila euro per il costo totale della ristrutturazione, quindi il sospetto legittimo è che metà sia stata pagata in contanti, ossia in nero, e quindi sfuggita al fisco, che sarebbe gravissimo per un ministro dell'economia e delle finanze. Già ne abbiamo avuto uno che teneva la casa in nero, adesso c'è pure una causa in corso tra lui, tra l'ex ministro Tremonti e Marco Milanese. Chiarisca Grilli, noi chiaramente daremo ogni rettifica Grilli vorrà fare. A proposito di case, l'Inghilterra è un paese strano, perché abbiamo da un lato, anzi vorremmo trasformarci in un annuncio per case, visto che il mercato va male. C'è una casa, a Carlton House, che si chiama Carlton House Terrace, si può ammirare St. James Park, vicinissima la casa a Buckingham Palace, sono 6 piani, 2 seminterrati, quanto costa? Beh, insomma, fatevi 2 calcoli, controllate il conto corrente, costa 300 milioni di euro, 250 milioni di sterline per la precisione, è la casa più costosa sul mercato britannico, 700 volte più del valore medio di un'abitazione della capitale. Per chi non avesse, pare che il proprietario sia un membro di una facoltosa famiglia reale del Medio Oriente e dopo un restauro l'abbia messo sul mercato. Per chi invece volesse cercare qualcosa di più semplice, pensate che più di 600 persone hanno fatto domanda in un'area depressa della Gran Bretagna, nel nord-ovest dell'Inghilterra, a Cobridge, per una delle 35 case popolari da ristrutturare che le autorità locali hanno messo in vendita al costo di £1, una sterlina per casa, e potranno contare anche su un prestito agevolato da 30.000 sterline. Veniamo ai casi di casa nostra, perché ce ne sono, mamma mia quanti ne ho oggi, non ce la faccio a farli tutti. Allora andiamo col meteo e la pubblicità e poi vediamo di fare l'elenco anche tra i pranzi del martedì alla Regione Piemonte per il PDL pagati con i soldi della Regione. Andiamo a Milano, dove finalmente si è deciso di tagliare i rimborsi taxi ai consiglieri, e poi le 160 assunzioni fatte da Crocetta in Sicilia, e poi i nuovi re delle consulenze sempre alla Regione Sicilia, Crocetta. ...17:40, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia. No, rido, ma non c'è nulla da ridere, perché insomma martedì, uno diceva, no, com'era, giovedì gnocchi, martedì pranzo di gruppo nella pausa del Consiglio regionale ogni settimana in Piemonte, la carta di credito del PDL riporta una strisciatina con pasto per 12, che non sono i 12 apostoli. Il conto era più salato perché poi c'è stata la diaspora all'interno del PDL, però gli ospiti all'inizio erano 22, il menù è concordato, però ogni volta siamo arrivati a 15.000 euro in 2 anni. Qualcuno aveva da ridire sul pasto e delle volte se ne andava in locali più sofisticati. È una necessità la pausa della seduta del Consiglio, è il solo momento in cui possiamo parlarci tranquillamente. Durante quei pranzi si giustificano, si discutono anche cose delicatissime, non si tratta di un momento di svago. Beh, però il punto è un altro, nessuno mette in dubbio che i pranzi fossero anche, insomma, importanti. Secondo la Procura di Torino, quei pranzi non dovevano essere pagati dai gruppi, perché ogni consigliere riceve già il gettone di presenza da 122 euro. Allora, fammi capire, tu ricevi il gettone di presenza perché vai lì, hai 122 euro, il pranzo te lo paghi, è un gettone che ti viene dato per, cioè, per la presenza, no? E con 122 euro forse un pranzetto te lo paghi. E comunque i consiglieri di ogni schieramento stanno aspettando di conoscere il dettaglio delle spese analizzate dalla Guardia di Finanza, qualche indiscrezione già trapelata, spese folli per al macellaio e alla boutique, ma anche il mitico consigliere del PDL Roberto Tentoni, che nel 2010 ha messo a rimborso spese del gruppo consigliere del PDL del Piemonte un impianto per la videosorveglianza di casa sua da 2.000 euro, telecamere collegate all'impianto antifurto. Non si capisce, Tentoni nega che l'abbia installato a casa sua, ci faccia sapere dove l'ha installato a questo punto. Allora, buona notizia invece dal Comune di Milano, basta i rimborsi per i consiglieri in taxi solo per le emergenze istituzionali, ma il percorso dovrà essere dettagliato e poi al massimo si potranno spendere 25 euro di corsa e vi sarà un controllo incrociato anche sull'arrivo in aula, cioè tu non puoi dire che hai preso il taxi per emergenza e poi sei arrivato in aula un'ora prima del previsto. Poniamo. Stessa cosa se la seduta si protrae dopo le 19.30 in inverno, le 20.30 in estate, e va bene, insomma. È un dettaglio non da poco, perché il taxi veniva utilizzato da molti consiglieri del Comune di Milano e non solo. Invece, due cose vorrei capire con il presidente della Regione Sicilia Crocetta, che ha tutta la nostra stima per le iniziative che ha fatto, però c'è una norma della finanziaria del governo Crocetta in cui è annunciata l'istituzione di un bacino di riserva per gli ex Intrinali e Coco Pro di Multiservizi e Biosfera, 160 persone, sulla quale la Servizi Ausiliari Sicilia potrà contare per servizi nel campo della sanità e dei beni culturali. Peccato che vi siano già 1970 dipendenti su questo. Il Dipartimento dei Beni Culturali ha chiesto l'invio di un centinaio di persone per coprire i posti scoperti di biglietteria in musei e siti archeologici. Però c'è un'altra cosa che ci lascia perplessi, perché c'è un business milionario in Sicilia che è nato sotto il governo Cuffaro, cresciuto sotto il governo Lombardo e con il boom delle società partecipate dalla regione, è quello delle consulenze legali e tributarie e degli incarichi per le difese in giudizio. È un business che sembra studiato apposta per alimentare gli incarichi esterni. Nessuna delle società, infatti, partecipate dalla regione è previsto uno studio legale e quindi devi per forza rivolgerti all'esterno. Giro d'affari milionario, con vari studi professionali più o meno noti a fare da padrone. Allora, il governatore Rosario Crocetta ha il merito di aver alzato il velo sulla mega consulenze, per esempio affidate da Riscossione Sicilia, che è l'ente per riscuotere il fisco in Sicilia, allo studio Dal Contres Astone Sorci. Pensate che ha pagato 10 milioni di euro nei primi anni, dai primi anni 2000 e chiuso nel 2010. 10 milioni di euro a uno studio legale esterno. L'AST, l'azienda siciliana trasporti, nel 2006 ha liquidato l'avvocato Alberto Stagno Dal Contres con una parcella da 350.000 euro per pareri riguardo al passaggio della società da ente pubblico a SPA. Ma te lo davamo noi il parere, ma prenditi un consulente, cioè 350.000 euro per sapere che ne pensi del fatto che io da ente pubblico mi trasformi in SPA, forse lo trovavi anche a prezzo più basso. Sicilia Acque nel 2007 ha dato due incarichi annuali da 120.000 euro per difesa in giudizio sempre da Alberto Stagno Dal Contres e Giovanni Pietruzzella. La SAS, Servizi Ausiliari Sicilia, ha dato all'avvocato Claudio Alongi tra il 2012 e il 2013 130 incarichi con un tariffario minimo per cui si arriva a 200.000 euro. Lui è anche consulente della SAS. Ma come si fa a dare un incarico a un avvocato che è anche consulente, che becca altri 16.000 euro di consulenza? E poi per il riordino delle società confluite nella SAS ha ottenuto un incarico da 19.000 euro per 4 mesi di lavoro un altro avvocato, Alessandro Garilli, che però a fine dicembre è stato consulente anche della Serit, compenso 20.000 euro l'anno. Il governo Crocetta nella finanziaria ha previsto lo stop alle consulenze in materia legale e non nelle partecipate dalla regione. Ma ci sono ancora decine di incarichi in vigore, come il Parco Scientifico, Sicilia e Servizi, Sicilia e Ricerca, 8 consulenti della SEUS, Lavoro Sicilia in liquidazione, paga ai consulenti esterni legali dai 14.000 ai 20.000 euro. La Trinacria Onlus ha affidato a un gruppo di studi la compilazione delle buste paga. Ma porca miseria, la compilazione delle buste paga, costo 500.000 euro l'anno per un gruppo che studia come si compilano le buste paga, 500.000 euro. Tiriamoci un po' su d'animo parlando della ricerca di McKinsey & Company, che se ce ne fosse stato bisogno ha dimostrato gli effetti positivi su qualunque impresa, e a maggior ragione se è un grande gruppo, dal cosiddetto welfare aziendale. Uno spesso pensa che siano dei benefit, quindi così dei vantaggi per i dipendenti, quando ormai, guardando un campione di 1300 lavoratori dipendenti, 50% donne, 50% uomini, insomma, i risultati sono incredibili, perché le aziende che hanno compreso che il welfare sussidiario, che vuol dire servizi per le donne mamme, ma non solo, portano a un beneficio superiore fino al 70% rispetto al costo sostenuto. Dottoressa Francesca Rizzi, manager di McKinsey & Company, buonasera. Buonasera. La sentiamo un po' bassa di voce. Allora, mi dica, 70% rispetto al costo sostenuto, mentre vedo che, mi scusi se la interrompo, che Renzi ha detto che la sua candidatura è la meno probabile, entrando nel direttivo del PD. Devo dare questo aggiornamento perché stasera potrebbe arrivare il nome del prossimo Presidente del Consiglio. Comunque, come si arriva a questo 70% in più? Quali sono le leve, i fattori chiave? Buonasera a tutti. Innanzitutto noi abbiamo fatto questa ricerca perché c'era bisogno all'interno delle aziende associate a Valore D, che è l'associazione che ci ha commissionato questa ricerca, di provare a quantificare i benefici percepiti dai dipendenti nell'erogazione di queste politiche di welfare aziendale e di cercare poi di capire come questi benefici percepiti e reali poi si traducessero anche in vantaggi organizzativi ed economici per le imprese. Come si arriva al 70%? Innanzitutto la condizione essenziale è che la costruzione della politica di welfare parti dall'ascolto dei bisogni dei dipendenti. La ricerca di mercato, l'intervista a questi 1300 dipendenti ci hanno detto innanzitutto una cosa molto importante, che il bisogno di welfare innanzitutto non è un bisogno solo delle donne e delle mamme, ma è un bisogno sentito da tutta la popolazione aziendale, uomini, donne, giovani, vecchi, con figli e senza, e con fasce di reddito più o meno alte. Quello che cambia sono i tipi di bisogni lungo il ciclo di vita. È ovvio che ci sono fasi della vita in cui la gestione dei figli può essere più prioritaria, fasi diverse in cui la cura degli anziani in questo momento diventa uno dei in generale dei bisogni più sentiti. Quindi punto uno, ascoltare, comprendere i bisogni e di cercare di articolare delle politiche di welfare sulle richieste dei dipendenti, che siano flessibili e che siano gestibili in maniera articolata lungo il ciclo di vita. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che serve un uso attento delle risorse. Quello che abbiamo visto è che per ogni, diciamo, 100 euro di costo sostenuto dall'azienda per erogare questi servizi di welfare, innanzitutto le aziende, se lo fanno in maniera attenta, riescono a trasferire ai dipendenti un valore economico di circa 125 euro, quindi il 25% in più. Perché? Perché le aziende ovviamente hanno un potere negoziale nell'acquisto di alcuni tipi di servizi dai fornitori, avendo grandi numeri, e quindi permettono di spuntare prezzi diversi di quanto io come singolo individuo potrei andare ad ottenere sul mercato, e questa è una prima condizione. Poi le aziende possono anche usufruire, diciamo, di risorse interne, di spazi, di contratti di fornitura che permettono di erogare alcuni servizi a costo effettivamente molto vantaggioso. Quindi c'è un primo tema di diciamo di capacità delle aziende di offrire a costi minori dei servizi che sul mercato hanno dei prezzi più alti. Ma c'è un secondo elemento, cioè se andiamo a confrontare poi la percezione dei dipendenti, per questi 100 euro di costo sostenuto all'azienda, mediamente le politiche di welfare danno una percezione del 70% più alto rispetto al 100 investito, quindi 170 euro. Perché? Qui ci sono due elementi, innanzitutto uno che è più legato alla qualità dei servizi, ovvero è chiaro che alcuni tipi di servizi mi possono dare una percezione di extra valore nel momento in cui, per esempio, ho un asilo nido aziendale con degli orari più flessibili rispetto agli asili nidi pubblici, piuttosto che ho dei servizi di assistenza agli anziani su cui mi sento più sereno perché il fornitore è stato ex ante, diciamo, scelto dall'azienda, e quindi io penso di potermi fidare di più, piuttosto che ho servizi più veloci e più comodi erogati direttamente in azienda di quanto io potrei averne se li comprassi direttamente sul mercato. E questo è un primo elemento. Ma c'è un altro elemento che è più legato, se vogliamo, a temi all'intangibile, se vogliamo metterla così, ovvero sia io dipendente trovo nell'azienda qualcuno che risponde a un bisogno che altrimenti non riesco da solo a risolvere. Tutto questo, diciamo, il tema del welfare in aziendale nasce, diciamo, in questo momento diventa molto rilevante in Italia, perché ci troviamo in una situazione sì. in cui il welfare pubblico non riesce a supplire adeguatamente quelli che questo sono i bisogni. Mi dica solo una cosa, dottoressa, per concludere, proprio una battuta, ma perché secondo lei invece le aziende, le imprese, anche quando grandi, a maggior ragione, lo capiscono poco questo? Ce lo vedono più come un benefit e non come un aumento della produttività questo, e dell'efficacia. Esatto, e questo è quello che esattamente che noi intendiamo dire, cioè il welfare come è stato concepito nel passato è stato concepito in maniera, se vogliamo, paternalistica. Si trattava di un benefit, di una sorta di aggiunta, un di più che il datore di lavoro offriva ai propri dipendenti dall'alto. Quello che diciamo noi è che in realtà il welfare deve essere costruito come elemento centrale delle politiche del personale, se vogliamo politiche del personale efficaci, efficienti, e deve essere una componente attorno al quale costruire nuovi modelli organizzativi, perché sì. se io pianifico e costruisco i piani welfare in questo modo, io azienda posso ottenere dei ritorni in termini di maggiore Chiaro. Produttività che altrimenti non riuscirei ad avere. Allora, grazie a voi per la ricerca, speriamo, io penso che ci sia anche un po' di provincialismo, di miopia nelle imprese, però grazie alla manager di McKinsey & Company, Francesca Rizzi. E adesso andiamo direttamente alla borsa, e io spero veramente che però queste ricerche servano, perché ripeto, non è un regalo che fai alla dipendente o al dipendente. Vogliamo ragionare un giorno dei costi che hanno le mamme e i papà che escono al lavoro per problemi con i figli, per l'asilo, oltre che i costi per sostenere anche gli asili quando non statali o anche quando statali. Comunque, adesso la borsa. Dicevo, la borsa oggi festeggia, l'abbiamo già detto in apertura, perché più 2,93%, chiusura sui massimi, con uno spread così basso che non si vedeva dal fine 2010, da ben prima dell'attacco al debito italiano, che è di metà 2011. Parigi più 3,60, Francoforte più 2,40, Londra più 2%, qui c'è l'effetto napolitano su Milano, almeno chiedo conferma a Livia Zancanera, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Sì, su Milano bisogna assolutamente sottolineare l'effetto napolitano da due giorni. Napolitano ha in corso le consultazioni, i mercati scommettono su una formazione a breve del nuovo governo, ma in generale oggi i mercati stanno scommettendo su un sempre più imminente taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che potrebbe prendere una decisione, sempre secondo gli esperti, già prima dell'estate, per il mese di giugno. Sì. Detto questo, qui c'è anche la variabile tassi della Banca Centrale Europea. ST Microelectronics ha diffuso i conti, oggi ha fatto il botto, più 9,17%. Sì, assolutamente sì, il mercato ha apprezzato una trimestrale che ha evidenziato sempre una perdita, ma in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012. ST ha mostrato infatti un rosso di 171 milioni di dollari rispetto ai 176 dell'anno scorso. Ha beneficiato però ST soprattutto delle previsioni sulla crescita, sull'andamento del secondo trimestre, della seconda parte dell'anno. Allora Livia, ti fermo un secondo perché abbiamo il GR, se non mi tagliano. Alle 18:07 riprende Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora continuiamo con Livia Zancaner, ti ho interrotto per motivi di tempo su ST Microelectronics, sulle prospettive, Livia. Sì, stavamo dicendo infatti che il titolo ha beneficiato del miglioramento, di una diminuzione della perdita, ma anche sulle prospettive per il resto dell'anno. La società si aspetta infatti per il secondo trimestre ricavi in crescita del 3% rispetto a un primo trimestre in cui le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili, cioè hanno registrato una lieve flessione 0,4%. Sono inoltre positive le stime sulla seconda parte dell'anno, grazie soprattutto ai nuovi prodotti e a un miglioramento delle condizioni del mercato. molto bene anche le banche, ma quello l'abbiamo già spiegato. Sulla base dello spread, la Popolare Emilia Romagna guadagna il 7%, comunque la migliore tra le banche. Telecom Italia più 6,30. Sì, allora Telecom Italia, ricordiamo che ieri ha perso terreno nella giornata in cui staccava il dividendo, oggi quindi recupera soprattutto in vista del CDA dell'8 maggio, quando saranno approvati i conti, ma soprattutto quando emergerà probabilmente una decisione sulle trattative, cioè sul proseguimento delle trattative per un'integrazione di 3 Italia. Ieri infatti il presidente di Telecom, Franco Bernabè, ha annunciato che una decisione sulla possibile integrazione verrà presa proprio entro il CDA del prossimo 8 maggio. Ancora Fiat bene, più 6,1%, bene anche Xorso, più 2, che è la finanziaria di controllo, più 2,40. Sì, allora sia Fiat che sia Xor hanno beneficiato del buon andamento del settore auto, che in Europa ha guadagnato oggi oltre il 3%. Fiat inoltre è in attesa dei conti del trimestre, che verranno pubblicati il 29 aprile, e aspetta sempre novità sulla fusione con Chrysler. Le banche d'affari, quindi gli analisti ed esperti, sono positivi e si aspettano, in vista di un'integrazione con il gruppo, con la controllata americana, dei termini d'acquisto attraenti. Oggi una banca d'affari ha detto di aspettarsi che l'integrazione escluderà la Ferrari, e così facendo separerà un asset che vale 3-4 euro per azione. Il titolo, vediamo che ne ha beneficiato, comunque per ora sono solo tutte analisi appunto delle banche, degli analisti, ma ancora non vi è nulla di nuovo. E poi per quello che riguarda i titoli più deboli invece, Saipem oggi che è la peggiore tra i titoli a maggiore capitalizzazione, meno 1,60. Sì, allora Saipem ha pubblicato i conti che hanno evidenziato un calo dell'utile e un incremento del debito. I profitti sono scesi del 52,4% a 110 milioni di euro, mentre l'indebitamento finanziario al 31 marzo è salito oltre le attese, oltre i 4,8 miliardi di euro. Inoltre sono diminuiti i nuovi ordini a 2,8 miliardi dagli oltre 3 miliardi precedenti. Ancora Snam oggi debole in attesa dei conti. Novità sul CDA invece della Popolare Milano, il titolo ha guadagnato l'1,60%, ma ieri si è dimesso il presidente Annunziata. Sì, allora novità dal CDA non ce ne sono, c'è però un'altra notizia, nel senso che Filippo Annunziata oggi ha annunciato che si è dimesso un altro consigliere, ovvero Cesare Piovene. Lo ha annunciato durante l'assemblea di Mediobanca, società per la quale Annunziata è presidente da anni. Ultimo titolo, devo dire che ce lo chiedono anche gli ascoltatori, Safilo, e qui andiamo tra i migliori e i peggiori. Migliore in assoluto Rizzoli, Corriere della Sera sul risparmio, più 26%, e anche sulle ordinarie, più 11,5%, magari un commento anche su questo. E invece Safilo, che ha guadagnato il 13,80%. Allora, sulle RCS risparmio... Risparmio ci hanno segnalato che non vi sono novità per quanto riguarda la categoria dei titoli, mentre per quanto riguarda RCS ricordiamo che ieri ha dato le dimissioni Andrea Bonombin dal CDA del gruppo dopo l'uscita di Paolo Merloni. Ricordiamo anche che domenica si terrà un ulteriore consiglio di amministrazione per discutere ancora sul piano di rilancio elaborato di Pietro Scott Iovane. Per quanto riguarda Safilo oggi ha guadagnato quasi il 14%, ha beneficiato dei conti pubblicati ieri a mercati chiusi, risultati che hanno evidenziato tutte le voci in sostanziale rialzo, quindi vendite nette in crescita del 3%, di quasi il 3%, un EBITDA, quindi un margine operativo lordo in rialzo del 7,5% e un utile netto a più 12,1% a 13,4 milioni. Ricordiamo anche che l'indebitamento finanziario è sceso verso quota 220 milioni. E noi il peggior titolo, lo dico per inciso, è Monriff, meno 4,51. Noi restiamo in tema di finanza, ma per parlare di Parmalat, che è anche un modo di parlare delle operazioni francesi sull'Italia. Infatti ieri la notizia che Gucci, e quindi PPR, François Pinault, ha acquisito il marchio Richard Ginori a Firenze, adesso è importante che mantenga anche gli occupati. L'operazione di chiusura dell'intera trattativa si farà il 22 maggio. L'offerta irrevocabile è di 13 milioni di euro e prevede l'impiego di 230 lavoratori, mentre dovrebbe essere addirittura d'arrivo anche l'operazione sempre di PPR per i gioielli Pomellato, un assegno da 300 milioni di euro verrebbe staccato. C'è un'altra operazione francese, forse la più importante, con quella su Bulgari, e mi riferisco all'acquisizione che fece nel 2011 il gruppo francese Lactalis di Parmalat, e qui gli azionisti sono in fibrillazione perché qualche accusa di saccheggio dei conti Parmalat c'è. Sì, perché il gruppo Parmalat ha chiuso un 2012 con ricavi da record, oltre 5 miliardi di euro e utili per 172 milioni di euro. Però non si è riusciti a provare il bilancio, perché da un lato il Tribunale di Roma vuole la riconsegna al comune della centrale del latte acquisita nel 1998, fu privatizzata nel 97, perché adesso è troppo lungo analizzare l'iter giudiziario, dico semplicemente che è durato 15 anni, il Tribunale ha deciso di restituire la centrale al Comune di Roma. La centrale fattura 130 milioni a 180 dipendenti, ma soprattutto dentro gli azionisti vi sono molte polemiche per un'operazione in cui il gruppo Lactalis, che controlla Parmalat, ha di fatto obbligato Parmalat, se ho ben capito, a comprare una società che si chiama LAG. Il problema, il problemuccio, è che LAG, secondo una perizia di Pricewaterhouse, varrebbe almeno 144 milioni di euro in meno rispetto a quanto ha dovuto pagare Parmalat, 736 milioni. Chiedo delucidazione al collega del Sole 24 Ore, Simone Filippetti. Buonasera Simone. Buonasera a voi. L'ipotesi sotto qual è? Perché uno può pagarla di più, ma perché? L'ipotesi è che i francesi abbiano gonfiato il prezzo della società cugina o sorella, una sorta di autovendita, insomma, come se mi comprassi l'automobile da mio papà, sì. Chi stabilisce quanto è il prezzo giusto? Ce lo decidiamo fra di noi. Il problema è che Lactalis è piena di debiti, Parmalat è piena di liquidità. Parmalat ha 1,5 miliardi di liquidità, Lactalis ha 6 miliardi di debiti. Lactalis ha comprato Parmalat, nella finanza cosa si fa? Si cerca il modo di mettere le mani su quella liquidità per ripagarsi dei debiti. Allora è chiaro che se io faccio comprare a Parmalat una società a me collegata a un valore ipoteticamente gonfiato, perché non c'è certezza che questo sia avvenuto, io sto in qualche modo mettendo le mani sulla cassa, ma sto mettendo le mani sulla cassa in una maniera un po', se volete, furba, perché avrei anche potuto far pagare un dividendo straordinario. Se Parmalat avesse distribuito un dividendo straordinario, gli azionisti di minoranza sarebbero stati contenti, perché pro quota avrebbero preso una loro parte. E Lactalis ugualmente avrebbe incassato una liquidità, però facendo un'operazione in qualche modo fuori borsa, fuori mercato, con un'acquisizione infragruppo che è con una parte correlata, gli azionisti di minoranza, a partire dal fondo Amber, che è quello più, come dire, più riottoso e più, insomma, col piede di guerra, si sono visti sostanzialmente tagliati fuori da un potenziale incasso. In più c'è l'inchiesta del Tribunale di Parma su appropriazione indebita, perché appunto se venisse provato che il prezzo pagato da Parmalat per la società cugina, diciamo così, è stato gonfiato, evidentemente si configura un reato. Sì, è un modo comunque non così lineare, non così, diciamo, tutto legale per ora, però per tirare fuori i soldi dalla cassa di Parmalat, portarli alla casa madre, facendole pagare molto di più del previsto, questa è l'accusa, diciamo, una società che appunto secondo Pricewaterhouse valeva 144 milioni in meno. Devo dire che anche in Italia nel passato abbiamo visto modi in cui l'azionista portava in alto gli utili, sì, e mi riferisco, vabbè, alcuni riguardano anche Telecom Italia. Nel caso di Parmalat c'è un... Però in questo caso la cosa che lascio, oltre a varie altre valutazioni, insomma, che l'hai comprata, tu sei piena di debiti, ti sei comprato un gioiellino, come dice la nostra base musicale, che è il film sul crack... su crack Parmalat, e poi inizia a spolparla da dentro. Ecco, questo lo dico perché acquisizioni estero su Italia ben vengano, ce ne vorrebbero di più, colonizzazioni estero su Italia, no, queste non... c'è un problema di opportunità legato al fatto che quei soldi che Parmalat ha in cassa non sono soldi, tra virgolette, normali. Certo. Sono i soldi che Bondi, Enrico Bondi, l'ex commissario straordinario, incassò con le revocatorie. Quindi le revocatorie fatte alle banche d'affari che fecero fallire la Parmalat di Callisto Tanzi. Quindi di fatto sono i soldi dei truffati, insomma i soldi del mercato in qualche modo. Mm-mm. Per cui c'è la sensazione, come dire, l'accusa è anche quella in qualche modo di prendersi dei soldi che in qualche modo venivano dai vecchi risparmiatori che subirono, sì, il crack. E anche questo è assolutamente vero. Grazie a Simone Filippetti. Grazie il traffico, e poi parliamo del 70% delle famiglie che taglia su cibo e sanità, ma anche delle imprese artigiane e dell'analisi dei settori più colpiti. Rapporto Movimprese della Confederazione Nazionale Artigianato, 349-238-6666 per gli sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Il 70% delle famiglie, dicevamo, ha tagliato su cibo e sanità, lo ha detto oggi il presidente dell'ISTE Enrico Giovannini in audizione alla Camera. Il 62% delle famiglie si rivolge ai discount e nell'ultimo anno tale quota è aumentata del 9%, appunto in soli 12 mesi. Questi dati lo dico anche perché ho polemizzato all'inizio del programma con il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che dice: ma no, l'Italia è un paese in cui si vive bene, infatti noi ci andiamo in vacanza. Ripeto, non è che tutte le volte che uno va in vacanza in un posto è un posto in cui si vive bene, no? E allora, detto ciò, insomma, mi sembrano battute così che serviranno forse per la campagna elettorale in Germania, ma non è che aumentino la popolarità di Schäuble e del governo Merkel in Italia. Sentiamo Enrico Giovannini intervistato dalla nostra Maria Luisa Pezzali. Nel 2012 c'è stato un forte aumento della quota di famiglie che ha ridotto la quantità o la qualità degli acquisti, per esempio nell'alimentare. È un ulteriore segnale delle difficoltà che evidentemente le famiglie stanno incontrando ed è un segnale che ormai non tocca soltanto le famiglie in gravi difficoltà economiche, quelle più povere, ma anche quelle della classe media, potremmo dire, e anche in alcuni casi dei redditieri più alti, cioè di quelli che appartengono al decimo più ricco della popolazione. È chiaro che in una situazione di incertezza come l'attuale si tende, per chi può, a privilegiare il risparmio e invece chi non può riduce i consumi o addirittura si indebita. Questo cambiamento nei modelli di consumo delle famiglie in molti sottolineano come sia destinato ad essere irreversibile, troppo è cambiato. Beh, questo è incerto. Dobbiamo ricordare che noi chiamiamo gli anni 30 del secolo scorso la grande depressione e non la grande recessione, perché la prolungata crisi economica in alcuni paesi determinò un vero e proprio cambiamento psicologico di molte persone che uscirono quindi depresse da quel periodo. Il rischio che abbiamo davanti con una recessione così lunga come quella che stiamo vivendo e che forse vivremo ancora nei prossimi trimestri è proprio che ci sia un cambiamento permanente, però attenzione, non tutto è negativo, perché una maggiore attenzione al risparmio oppure una maggiore attenzione a evitare lo spreco, pensiamo agli alimentari che sappiamo essere un comportamento tipico dei paesi sviluppati, non necessariamente è negativo, anzi. Non necessariamente negativo, si tratta di capire quando è neosobrietà e quando è invece neopovertà, come disse il mai abbastanza compianto Giampaolo Fabris, che invece che qui si rischi una spirale, lo ha riportato ieri la CNA e quindi la Confederazione Nazionale degli Artigiani. Potrebbero chiudere a fine anno 140.000 imprese artigiane, il 10%. Del totale. Nel rapporto Movimprese, le imprese artigiane in ginocchio, in questo modo andrebbero persi 300.000 posti di lavoro. I settori più colpiti li analizziamo con il capo dipartimento delle politiche industriali Claudio Giovine. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, è vero che la neosobrietà è anche un qualcosa di positivo, il crollo dei consumi per un meno del potere d'acquisto è una cosa invece solo negativa, mentre vedo che lo spread ha chiuso a 268 punti base, questa è la buona notizia del giorno, dove le imprese artigiane sono state più colpite in quest'ultimo anno, che si è rivelato particolarmente virulento, mi riferisco al 2012. Se analizziamo i settori è evidente che la crisi si è concentrata in maniera più netta sul settore delle costruzioni, sul settore dell'abbigliamento, tessuti, articoli d'abbigliamento, nel settore della nautica, di tutti gli accessori per auto, moto, tutta la mobilità. Questi sono quelli che noi abbiamo misurato secondo una metrica direi semplice ma credo molto efficace, mettendo a confronto da un lato il tasso di cessazione, cioè la quantità di imprese che hanno chiuso i battenti nel corso del 2012 rispetto a quelle che esistevano all'inizio dell'anno. Ci sono settori, questi che ho richiamato, in cui mediamente un'impresa su 10 ha cessato di esistere. E in questi settori parallelamente il tasso di crescita, cioè il tasso di nuove imprese, come il saldo che si è generato, è tendenzialmente negativo di molto, nel senso che a fronte di un certo numero di imprese che chiudono, quelle nuove che aprono è di gran lunga inferiore. Questi sono i settori che abbiamo definito, come dire, maggiormente a rischio, quelli per i quali anche le prospettive nel medio periodo appaiono in questo momento fortemente minati. Abbiamo identificato parallelamente con la stessa metodologia dei settori in cui anche a fronte di una chiusura direi importante, sempre nell'ordine del 10%, esiste però un tasso sostanziale di riapertura analogo, tant'è che il saldo complessivo è tendente allo zero. Pensiamo a tutta la parte relativa non so, alle calzature, ai servizi di pulizia, anche alla parte delle panetterie, gelaterie, pizzerie. Sono settori in cui c'è un'accelerazione del turnover molto rilevante, perché avere un'impresa su 10 che chiude non è un dato positivo, però c'è un'altrettanta vivacità che dà il senso che è un settore sul quale ancora c'è qualcuno pronto a scommettere e sul quale quindi noi abbiamo dato un indice di critico, ma al tempo stesso in condizione di agganciare una ripresa laddove questa, come speriamo, possa consolidarsi. Ci sono poi quelli, come dire, in lento declino, in cui c'è un tasso di chiusura importante, ma non elevatissimo, nell'ordine del 7-8%, e c'è anche qui un tasso di crescita che si attesta intorno al meno 2-3%. Un settore in cui noi apparentemente stiamo lentamente perdendo anche una posizione di rilievo che avevamo, e in particolare purtroppo attengono a tutti i settori tipici della manifattura, dalla fabbricazione di mobili, dalla meccanica, dalle ceramiche, l'orificeria, tutti quei settori tipici anche del Made in Italy che ai noi escono direi a dura prova messi da questa crisi lunghissima che, come spiegava bene il professor Giovannini, sta rischiando un po' di trasformare un sistema economico nel suo insieme. Sì, ma secondo me lo ha già trasformato su questo. Assolutamente sì. Delle volte non sempre come elemento negativo, perché però insomma forse i tempi e l'intensità, i modi sono stati troppo traumatici. Poi ci sono i settori apparentemente in buona salute. Sì, sono quelli in cui c'è un tasso di chiusura molto più basso, direi quasi fisiologico. Chimica, alimentari, esatto, che sono estetici. Quelli tipici dei consumi, che guarda caso seguono esattamente il trend dei consumi. Però lei dice che questi settori, una volta che ripartissero i consumi, sono in grado di riprendersi. Sono quelli più strettamente legati a una dinamica congiunturale. Parliamo dell'alimentare, dei servizi alle persone, del commercio, quelli in quali una ripresa del consumo dovrebbe consentire loro di riprendere. E qui troviamo, ripeto, un basso tasso di chiusura e un tasso di crescita che alla fine tendenzialmente... Sì, infatti più che il tasso di crescita è il tasso di cessazione che è interessante, perché si va dal 13%, che è altissimo, esatto, delle sartorie e abbigliamento, il 10% di nautica, motocicli, il 10% della logistica o le panetterie o la consulenza informatica o le calzature pelletteria, tasso altissimo. Invece nell'alimentare il tasso di cessazione è la metà, il 5%, anche nella chimica, anche nel commercio all'ingrosso, centri estetici, acconciatori, lavanderie, 5%, a metà strada legno, fabbricazione di mobili, prodotti di metallo, meccanica e quant'altro. Io nella speranza, prossimo anno, quando ripresenterete l'indagine Nuove Imprese, di commentare un'Italia e finalmente in ripresa, non ne posso più di questa retorica dell'uscita dal tunnel. Ringrazio intanto il capo dipartimento politica industriale di CNA, Claudio Giovine. Grazie a voi, buona giornata. E una buona serata anche da Sebastiano Barisoni e voi in ascolto. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. I nomi che sono usciti, che stanno uscendo per il Presidente del Consiglio, che potrebbe arrivare già stasera, sono a questo punto Amato, Granotto, Letta e Renzi. Domani magari andremo in diretta con un Presidente del Consiglio nuovo. Hasta mañana. Radio 24. La passione si sente.